not the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh. Io sento che qualcuno non mi ha detto mai su come poi si cresce a vivere. Nella mente mia confusa guardo indietro per capire dove sbagliare.